5F. Ascolta e replica. Quella mattina parlai a lungo. Anche noi parlammo a lungo. Quella mattina ascoltai a lungo la radio. Anche noi ascoltammo a lungo la radio. Quella mattina la invitai al bar. Anche noi la invitammo al bar. Quella mattina imparai molto. Anche noi imparammo molto. Quella volta arrivò in ritardo. Anche loro arrivarono in ritardo. Quella volta si arrabbiò. Anche loro si arrabbiarono. Quella volta si sistemò a casa mia. Anche loro si sistemarono a casa mia. Quella volta spiegò bene la situazione. Anche loro spiegarono bene la situazione.